Europa 24. Un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, nei giorni scorsi avrete sentito, abbiamo avuto per ben due giorni il commissario Barnier che ci ha anticipato i contenuti di una riforma, del secondo passaggio di una riforma, il cosiddetto piano banche. Dunque il giorno era questo, atteso per le novità che ci dà subito in diretta il nostro Sergio Nava. Buongiorno, via libera poco fa da parte della Commissione Europea al meccanismo di fallimento ordinato delle banche. Si tratta del secondo pilastro della cosiddetta Unione Bancaria Comunitaria, ideata per evitare che i fallimenti degli istituti di credito possano avere effetti negativi sulle finanze pubbliche dei paesi interessati. Il meccanismo, secondo quanto reso noto dal commissario europeo Barnier, funzionerà così. La BCE, supervisore delle 6.000 banche europee, segnalerà quando una banca si trova in difficoltà e deve essere salvata. Un board formato da rappresentanti di BCE, Commissione e autorità nazionali preparerà il fallimento ordinato dell'istituto e la Commissione deciderà se e quando far scattare il fallimento sulla base delle risoluzioni del board. Contemporaneamente sarà creato un fondo di risoluzione unico pari a circa 60 miliardi per assicurare la disponibilità del finanziamento a medio termine mentre una banca viene ristrutturata. La mossa di Bruxelles ha aperto un fronte di scontro con la Germania, che non intende cedere troppo potere alla Commissione europea e che chiede soprattutto modifiche ai trattati prima di procedere. Non possiamo aspettare le modifiche dei trattati per risolvere problemi che abbiamo ora, ha replicato Barnier oggi in conferenza stampa. È tutto. Grazie Sergio Nava. Dunque, l'abbiamo detto più volte, questo è davvero un tema centrale per il futuro. La questione delle banche è ovvia, ma ha un elemento di grande peso politico. Si fa un gran parlare di Federazione Europea di questi tempi per uscire dalla crisi. Bene, questo è sicuramente uno di quei grandi dossier attraverso cui passa il cambiamento. Ma parliamo di Ecofin, che ha approvato un'aggiunta di poco più di 7 miliardi di euro al budget comunitario 2013, colmando così parzialmente un gap che aveva preoccupato Commissione ed Europarlamento. Altri 4 miliardi mancano all'appello, su questi deciderà in autunno. Intanto prosegue il dibattito sul grande budget, quello 2014-2020, alla luce del via libera di fine giugno. Sul tavolo anche altri 8 miliardi destinati alla lotta contro la disoccupazione giovanile. I Verdi europei hanno votato contro il budget settennale. Isabelle Durand, vicepresidente dell'Europarlamento. It's a little bit a gadget, I'm sorry. Poco più che un giocattolo. 8 miliardi di euro, dice la Durand, per la disoccupazione pare dunque un gadget. Se consideriamo il numero di giovani disoccupati, la magnitudo del problema, non capisco, dice, perché alcuni membri di questo Parlamento, così convinti che sia necessario fare qualcosa per la disoccupazione giovanile, abbiano accettato così pochi soldi. È ovvio che siano meglio di niente, ma non sono abbastanza, e aggiunge, mi pare una mossa elettorale in vista delle elezioni del Parlamento europeo. Quando ci sono delle elezioni deve avere qualcosa da presentare all'elettorato, e questi miliardi sono di fatto tutto questo. Prosegue intanto la campagna di Age Platform Europe, il network europeo per l'invecchiamento attivo della popolazione, una campagna che non si ferma con la conclusione dell'anno dell'invecchiamento e della solidarietà tra le generazioni, che si è concluso a fine 2012, come spiega Alice Sinigaglia, coordinatrice della campagna, sentita da Sergio Nava. Quello su cui ci stiamo focalizzando adesso è ottenere una piattaforma europea che favorisca e supporti gli attori locali che stanno lavorando per adattare la società ai bisogni della popolazione che invecchia. Noi siamo una rete europea che rappresenta 160 associazioni di anziani, e quindi attraverso questa rete rappresentiamo circa 30 milioni di anziani, tra cui una buona parte di persone che sono ancora nella fascia tra i 50 e i 65 anni. Quindi è una campagna che tocca una buona parte della popolazione europea. Sono Federico Taddia e vi segnalo la proroga ad oggi, 10 luglio, della scadenza del concorso On the Move, aperto a tutti i giovani italiani che credono nell'importanza della comunicazione sociale e legato alla campagna di pubblicità Progresso Tu puoi dare la vita sul tema della donazione degli organi. Si può partecipare con foto, articoli ed eventi non convenzionali. L'ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo collabora nella realizzazione del concorso e mette in palio 15 viaggi a Strasburgo, con visita al Parlamento e incontro con gli europarlamentari. Per informazioni www.europarl.it. E naturalmente Europa 24 prosegue su radio24.it. Per ora è tutto. Un saluto da Filippo Reggi in regia, da Gigi Donelli al microfono. Appuntamento domani poco dopo le 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.